Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante e traghettatore, ben trovati per questa puntata del 21 maggio di Ferribot. Oggi apriamo con dei dati estremamente significativi che, come dire, ci confortano nella linea di Ferribot. Secondo l'United Nations Global Compact, secondo una ricerca sulla sostenibilità chiave del successo, il 68% delle imprese, parliamo di una ricerca mondiale, prevede di aumentare i propri investimenti in sostenibilità, e addirittura il 93% degli amministratori delegati mondiali ritiene che la sostenibilità sia l'elemento fondamentale per il successo delle imprese. Siamo contenti e commentiamo questo dato con Stefano Micelli, che è direttore di Venice International University. Buongiorno Stefano Micelli, lei è d'accordo con questa visione dell'United Nations Global Compact? Buongiorno Insargante, buongiorno ascoltatori. Sì, sono d'accordo e credo che questa informazione, questo dato vada riportato all'interno di uno scenario internazionale che va considerato anche nella sua diversità rispetto alla situazione italiana. Nel mondo l'economia cresce, nelle economie emergenti i tassi di crescita sono ritornati sostanzialmente ai valori pre-crisi. Esiste, contestuale a questa crescita tumultuosa, in particolare del sistema industriale di alcuni di questi paesi, un'attenzione crescente verso il tema della sostenibilità. Noi a Venezia, come Venice International University, formiamo da diversi anni, dal 2004, funzionari, quadri, ricercatori, in particolare cinesi, di tutta l'Europa dell'Est, in generale del mondo asiatico, e vediamo che a fronte di questa crescita importante e spesso tumultuosa, c'è oggi una nuova sensibilità ai temi della sostenibilità, una sensibilità che si traduce in un diverso rapporto delle imprese con il loro territorio, in decisori pubblici più attenti e sensibili alle regole del gioco, una sensibilità che in particolare in Cina vediamo crescere con il crescere della professionalità a tutti i livelli su queste tematiche. E in Italia, secondo lei, direttore, invece? In Italia vedo che oggi sono due le spinte che noi registriamo di aziende e decisori pubblici orientati alla sostenibilità. Sono due i grandi fattori che muovono in questa direzione. Il primo è il rapporto con le comunità locali. Oggi le imprese non possono più chiamarsi fuori da un rapporto con lo spazio, con il territorio, con le comunità, che prescinda dal tema della sostenibilità. Oggi questo tema è parte integrante della responsabilità che le aziende hanno verso il territorio, che non è solo una responsabilità economica ma è anche ambientale. E poi c'è il tema business, chiamiamolo così, che vediamo crescere soprattutto nella consapevolezza di coloro che operano all'estero. Oggi per internazionalizzarsi, per riuscire a conquistare nuovi mercati, le aziende giocano la carta green per accreditarsi su mercati, in particolare quelli asiatici, soprattutto quello cinese, per accreditarsi come operatori che hanno un differenziale, un vantaggio competitivo da spendere. Bene. In questa economia. Grazie, direttore, chiarissimo e soprattutto lungimirante. Continuiamo con due notizie: la cura dei beni comuni, che è il tema centrale dell'ottava edizione di Terra Futura, che fino a domani si tiene a Firenze. I temi sono tutela dell'ambiente, le energie alternative, finanza etica e tutto quello che è, come dire, il contenuto della sostenibilità. Vi invito a visitare www.terrafutura.it per maggiori particolari. Così come domani si chiude anche Manifesta, che è organizzata dalla provincia di Lecco ormai da 15 anni e che si occupa invece delle realtà no profit attive nell'ambito socio-assistenziale e sociosanitario. La rassegna si tiene fra le città di Lecco, ma anche ad Osnago e Bellano. È tutto per oggi, vi ricordo di segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale e no profit a ferribot@radio24.it. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Mauro De Angeli in regia.